altro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E sono naturalmente ben contenta di ritrovarvi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Dopo una settimana, come sempre, ci ritroviamo per raccontarci tutte le cose che sono successe in questi giorni. Tutte in realtà un po' difficili, viene il fiatone solo a pensarci. E ce ne sono sicuramente alcune principali, no? Che vi sono rimaste in mente, sulle quali volete ritornare, chiamando naturalmente come sempre il numero verde 800 24 00 24, numero verde per esprimere le vostre libere opinioni sui fatti della settimana, 800 24 00 24. Tra poco l'opinionista estemporaneo o estemporanea, chi sarà, di oggi. Però come sempre vi ricordo giusto qualche notiziola principale, poi voi siete liberi e libere naturalmente di andare a pescare dove volete. Beh, tanto per iniziare, naturalmente, anche se è successo la settimana scorsa, continuano gli strascichi anche naturalmente drammatici, politici, di diplomazia internazionale, eccetera, della strage di Oslo. Poi la crisi internazionale, la crisi economica internazionale, che continua, altro che scia infinita, con Stati Uniti che fanno stare un po' col fiato sospeso, anche se sembra che ormai un accordo sia più o meno raggiunto, questa benedetta paura del default. Cos'è questo default? E poi anche il nuovo militare morto in Afghanistan, ci sono stati i funerali questa settimana, le varie inchieste che proseguono, da quella su Papa a Penati, a Milanese, a cui è legato anche il ministro Tremonti, no? Polemiche anche su di lui, richieste le dimissioni, lui ha fatto alcune dichiarazioni anche abbastanza spiritose, diciamo così, e poi le polemiche sui ministeri al nord, con questa tensione anche che si è creata tra il Quirinale e la Lega. Ieri Bossi ne ha dette altre, diciamo, piuttosto consistenti, o almeno piuttosto provocatorie e forti. E poi il primo sì al processo lungo che c'è stato ieri al Senato, adesso passa alla Camera questo disegno di legge. E poi invece, a proposito di disegni di legge, è stato affossato definitivamente quello contro l'omofobia, anche se qualcuno dice il dialogo deve continuare. Insomma, per molti è stata una causa di civiltà persa, un'occasione persa, per altri invece avevano altre motivazioni. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensate su questi vari argomenti. Poi daremo spazio ovviamente anche alle tante opinioni espresse questa settimana sulla pagina Facebook dedicata a Non ci sono più le mezze stagioni. Dovete cercare, ve lo ricordo sempre, Roberta Giordano, Non ci sono più le mezze stagioni. Che cosa ci conferma questa settimana che non ci sono effettivamente più le mezze stagioni? A parte il tempo, che diciamo è sempre più bizzarro, si dorme con le calzine, ancora con la copertina, ma l'estate quando arriva? A novembre, ci si chiede. Ma a parte questo, diciamo più metaforicamente, in Illinois, negli Stati Uniti, ci sono apparsi degli enormi cartelloni pubblicitari di Pubblicità Progresso per le strade con un pacchetto di sigarette. Voi direte, beh, la solita pubblicità contro il fumo. No, dentro, al posto delle sigarette, c'erano i Wustel, gli hot dog, perché alcuni ricercatori americani hanno deciso di fare questa campagna per la salute dicendo: guardate che gli hot dog, come le sigarette, possono nuocere gravemente alla salute, perché sapete, gli americani ci vanno pazzi, ne mangiano a quintalate, insomma, e quindi sono apparsi, diciamo, invece delle sigarette, questa volta sono gli hot dog. Ma invece sulle altre notizie ci andremo tra pochissimo con l'800 24 00 24. E chi è, signore e signori, l'opinionista estemporaneo di oggi? Ritan Armeni. Buongiorno. Buongiorno cara Ritan. Buongiorno. Come andiamo? Sei già in vacanza o sei al duro lavoro? Sono già in vacanza. Ecco. Sentiremo dei fluttui del mare oppure scalpelli in montagna? No, quelli no. Mi sono messa a casa tranquillamente per fare questa, per commentare con te, non c'è nessun problema. Hai preso un po' di freddo, hai preso però, eh? Hai preso sì, anch'io un po' di freddo. Ritan è giornalista, è scrittrice, conduttrice da 8:30 sulla 7 a trasmissioni radiofoniche, insomma non ha bisogno neanche lei di presentazioni. Ritan, se tu dovessi, diciamo, andare su quella che è la notizia in particolare che ti ha colpito di più questa settimana, qual è? Guarda, più che una notizia è una situazione, cioè la situazione drammatica in cui siamo mi ha colpito. Cioè, è ovvio che noi facciamo parte, voglio dire, ahimè, di una crisi internazionale piuttosto consistente, l'hai detto tu prima, no? Ormai i mercati sono diventati una sorta di incubo, siamo lì, lo spread e il default, che poi in sostanza significa il fallimento degli stati, poi, che non è una cosa come dire, così leggero. A me mi ha molto colpito questa settimana, per esempio, un'intervista che ha fatto Giuliano Amato, molto drammatica su questo tema. Ecco, io credo però che purtroppo all'interno di questa crisi così grossa, di tu hai detto tutte le notizie che poi messe insieme formano una crisi grande, ecco, noi viviamo come italiani una crisi particolare, perché ci sembra di non vedere via d'uscita. Adesso ti faccio un esempio: Obama è veramente in un grosso impiccio se non si raggiunge un accordo tra repubblicani e democratici, no? Perché che già siano imbiancati i capelli, mi sa che procede questa imbiancatura, sì. Però voglio dire, se per caso riescono a fare questo accordo e lui dice che lo faranno, beh, insomma, si comincia a vedere una luce in fondo al tunnel. La Spagna è messa male, abbiamo letto tutti che la Spagna è in crisi, forse più dell'Italia, si è detto. Però, viva Dio, c'è un presidente del Consiglio, un premier che dice andiamo alle elezioni a novembre, anche lì si vede un lumicino, si risolverà qualcosa, non si risolverà, però c'è una via d'uscita. La nostra crisi invece è una crisi stagnante, e, mi pare, è una crisi nella quale tutti litigano con tutti, i principali protagonisti della politica italiana, sia di destra che di sinistra, sono immischiati in storie di corruzione sicuramente, ma quando da una parte c'è l'opposizione, che dovrebbe fare l'opposizione, però anch'essa ha dei problemi, non mica da nulla. Poi abbiamo il ministro dell'economia, questo ministro straordinario, si diceva che in contatto con l'Europa, parlò di Tremonti, che invece anche lui è immischiato in una storia per la quale è molto molto molto criticato. Ecco, che idea ti sei fatta tu per esempio di questa faccenda? Adesso ovviamente poi bisognerà approfondire, i magistrati. Guarda, io ho una fedda dal punto di vista giudiziario, appunto, come stavi già dicendo tu, vorrei capirci un pochino di più e sono completamente... Devo dire che a me fa una certa impressione un ministro che paga 4.000 euro di affitto in nero, perché Lui dice che non è vero, che era in nero, che era tutto un meccanismo diverso. Oppure il subaffitto senza voglio dire, ciascuno di noi, voglio dire, sa benissimo che se c'ha una casa grande e ne affitta due stanze, e le subaffitta, voglio dire, viene perseguito dal fisco regolarmente. E mi ha molto stupito anche, ci sono molte cose abbastanza stupefacenti, diciamo, in questa storia, anche il fatto che un ministro prenda il suo stipendio in contanti. Ritanna, senti, siccome prima hai fatto cenno, diciamo, a questa politica sempre un po' litigiosa, sempre c'è sì. Napolitano che ogni due per tre viene fuori a dire mi raccomando più coesione, più unità per l'Italia, eccetera, eccetera. Allora, questa trasmissione devi sapere che è l'unica che ha un collegamento proprio diretto, immediato con il Parlamento per capire se magari, insomma, ci hanno pensato, si sono un po' pacificati. Sentiamo un attimo se c'è il collegamento. No, vabbè. Chiudi, grazie. Chiudi, se compreso che no. Vabbè, come se niente fosse, ci ho tentato. Quindi non si deve essere pacificato nulla. No, ho dato questa impressione, ma non vorrei sbagliarmi. Senti, cominciamo a sentire Ritanna, subito uno degli ascoltatori in linea all'800 24 0024. Sono curiosa di sapere qual è la notizia del primo ascoltatore, Giovanni dalla provincia di Trapani. Siamo in Sicilia, Giovanni. Esatto. Buongiorno a te. Tutti. Siamo dalla provincia di Trapani. E personalmente la notizia che un po' mi ha sconvolto, tra virgolette, è stata quella del processo lungo, no? Sì. Io vorrei capire un po', cioè la nostra maggioranza parlamentare come fa a giustificare l'introduzione di questa norma? Fino a qualche tempo fa si parlava di processo breve e non lungo, è giusto? A volte è l'elastico, si dire. Io ho un'idea me la sono fatta, però penso che fosse anche voi, ditemi un po'. Senti, che cosa ti spaventa di questo processo lungo? Sicuramente che sia sempre la classica norma ad personam, non dico che quale sia la personam in questo caso. Personam, lasciamo perdere la personam. Giovanni, senti, che tempo fa lì a Trapani, visto che non si capisce più niente? È una bellissima giornata di sole e devo dire che ispira tutti quanti ad andare. Molto bene, Giovanni, tu sei già al mare? Io no. Inviti gli altri, giustamente. Generosamente. Ancora sì. Sono per strada, quindi sono andato a casa. Dopodiché forse facciamo un salto al mare. Prendi un costume e vai. Giovanni, grazie. Pensa anche a noi quando sarai lì a sciabordare. Grazie, okay. Giovanni. Senti, sul processo lungo, Ritan Armeni, no? Diciamo alle persone che magari non hanno seguito più Giovanni, no? E lui ha ragione. Naturalmente il sospetto che sia una cosa ad personam viene, anche perché, come dire, in Italia ci sono molti motivi per avere di questi sospetti. Ritanna, scusami, preciso solo a chi sta ascoltando che questo processo lungo per il quale c'è stato il primo sì al Senato, adesso passa alla Camera, prevede, fra le varie cose, che la difesa possa presentare una lista, diciamo, piuttosto infinita di testimoni, e per questo i detrattori dicono in questo modo finisce in prescrizione il processo, perché se la difesa continua a portare sì, all'infinito. Certo, non so, si è calcolato che in alcuni processi se ne possono portare 35.000, volendo, la popolazione è chiaro, e quindi questo viene fatto perché poi arrivano i termini di prescrizione. E quindi io devo dire che pure sono, certo, le cose ad personam mi colpiscono, però io credo che questa vicenda sia ancora più grave, perché è proprio un colpo alla giustizia comunque, perché significa che tante persone, magari colpevoli, potranno essere abbastanza tranquilli. Adesso noi protestiamo con i tempi della magistratura, che sono lunghi, i processi che non vengono fatti, eccetera. Se questa cosa addirittura si legalizza, pensiamo un attimo alla giustizia italiana, alla giustizia, non pensiamo a Berlusconi, pensiamo alla giustizia italiana, che si rallenta ulteriormente, che riesce a farsi ben poco, perché naturalmente le persone incriminate possono prolungare finché si vuole. Beh, non è una bella prospettiva questa. Ma tu hai capito per caso, Ritanna, giustamente come diceva Giovanni, questo passaggio dal processo breve al processo lungo? Come mai? Beh, il figlio mi pare sempre lo stesso, dal processo breve al processo lungo. Comunque il problema è quello, di fare in modo che alcuni processi non vengano celebrati alla fine, no? O in un modo o in un altro. In questo senso l'ascoltatore c'ha ragione, perché in qualche modo comunque si arriva alla prescrizione. Nitto Palma, nuovo ministro della giustizia, diceva ieri che non avrà questo effetto deflagrante che tanti temono, mentre il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Luca Palamara, diceva è un favore ai criminali, perché continueranno a portare testimoni e alla fine. Per il motivo che ti dicevo, perché ci sono processi nei quali appunto sono stati calcolati che volendo si potrebbero portare 35.000. Ecco, pensiamo al processo Parmalat. Non quante persone si possono portare a testimonianza? Tutti gli azionisti, tutti i piccoli azionisti, tutto si può fare in una situazione del genere. Questa è un po' la cosa, diciamo così, brutta e deleteria di questa vicenda. 800 24 00 24, vediamo se Mario dalla provincia di Udine, quindi subito dalla Sicilia andiamo verso l'estremo nord. Mario, mi dici solo l'argomento, poi ci fermiamo per la viabilità, perché sono giornate da bollino nero, come si dice. Sì, Roberta, buongiorno. Buongiorno, ma anche tu sei in viaggio, mi par di sentire, in sottofondo. Sì, sono in viaggio. Verso le vacanze? Sì, per le vacanze. Molto bene, quindi sei rilassato. Sì. Io volevo solo segnalare una cosa, se non mi è sfuggita la notizia fra i tanti giornali che leggo. Il commento sulla faccenda Tremonti, che non voglio giudicare, non so giudicare la casa, la non casa, i 4.000 euro piuttosto che gli 8.000, ma nessuno, mi sembra, ha messo in evidenza l'assurdità di una persona preparata come deve essere il ministro, che ha un collega, il suo collaboratore, con un tenore di vita di quel tipo che sta emergendo, barche, yacht e via dicendo, e il ministro non ne sa niente, non si meraviglia di un braccio destro dipendente che ha dei guadagni e un tenore di vita di questo genere. Come fa a dichiararsi fuori da una vicenda di questo tipo? È inconcepibile, visto che chiaramente è una persona intelligente. Mario, senti, dove stai andando in vacanza? Sono a Vasto. A Vasto? Quindi siamo in Abruzzo? In Abruzzo. Sei più, diciamo, verso, ti piace più cosa ti piace più, la montagna? Tutto. Ma sono in pensione, quindi per me è sempre vacanza. Avete visto, siamo subito insieme, Roberta Giordano con voi con me. L'opinionista estemporanea di oggi è la giornalista, scrittrice e conduttrice Ritanna Armeni. Molte le telefonate all'800 24 00 24, come sempre, per commentare insieme i fatti della settimana. C'è Alessandro da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo intervenire sul Presidente della Repubblica, che secondo me è un po' esagerato sul discorso dei ministeri. Ministeri al nord, intendi? Sì, perché in effetti non c'è nessun trasferimento, è un è una buttata quello di dire il trasferimento, non ce n'è nessuno. Sono delle piccole dépendance per meglio cogliere evidentemente delle esigenze, ma come ci sono sempre state, come da quando è nata la Repubblica, come ci saranno sempre. E poi è anche strano. Ci sono sempre state? Ci sono sempre state, cioè queste dépendance, questi diciamo così uffici di rappresentanza, non è che sia... vanno e vengono, sono atti amministrativi interni ai ministeri. Non so, le volevo citare per esempio l'importantissima funzione della Ragioneria Generale del Ministero delle Finanze qui a Milano in via Zuretti, che è sempre stata. Ma poi è il Presidente che cita spesso l'Europa, ma io vorrei, questo Presidente sa che c'è in atto in tutti i paesi europei dei decentramenti fortissimi, per non parlare della Germania. La Germania addirittura ha la Corte Costituzionale, non a Berlino, ha la Banca Centrale, la Bundesbank, non è a Berlino. Ci sono un sacco di altre funzioni proprio di vitale importanza per lo Stato che non sono a Berlino. Alessandro, ti faccio questa domanda. Ieri mi pare Calderoli, ministro della semplificazione della Lega, diceva è un modo per far avvicinare, per far sentire i cittadini più vicini ai ministeri, ma se il ministero per esempio è portato a Monza, che so, quello della semplificazione, quelli di Ostuni in Puglia, come sono vicini a questo ministero per te? Ma la vicinanza non è di tipo fisico, geografico, è di funzionamento. Io non so neanche perché c'è, con tutte le teleconferenze ormai che ci sono, si debbono radunare fisicamente, non esiste. Il discorso è quello dell'efficienza, può darsi che una parte, perché poi non è un ministero della semplificazione a Monza, è una parte, semplicemente sono degli uffici decentrati, funzionano bene. Bene, va benissimo. L'importante è che funzionano bene. Alessandro, volevo chiederti un'altra cosa. Scusa se ti intervisto. Sì. Allora, ieri, curando l'informazione del pomeriggio e della sera, c'erano fra le tante dichiarazioni di Bossi due che mi hanno colpita. Una in cui ha detto la guerra in Libia non l'ha voluta Berlusconi, è Napolitano che l'ha voluta, e un'altra in cui dice sull'emergenza rifiuti a Napoli i rifiuti li abbiamo messi in quel posto. Tu hai capito di che posto parlasse, di chi anche, no, di chi era al posto? Non l'ho sentita sinceramente. Quella della Libia, diciamo così, che è stata purtroppo un'avventata decisione che probabilmente abbiamo dovuto seguire quello che erano, diciamo così, dei fortissimi, chiamiamoli military suasion, non moral suasion, qui di morale non c'è niente, che venivano dalla Francia, dall'Inghilterra, che probabilmente ci hanno, tra virgolette, un po' costretto. Anche qui, se vogliamo vedere l'Europa, sono pochissimi paesi dell'Unione che sono intervenuti. Il paese europeo più importante, che è la Germania, di gran lunga il paese europeo più importante, se ne è chiamato fuori. La Grecia, che è vicinissima alla Cirenaica, Cirene è stata fondata dai greci, se non ricordo male, se ne è chiamata fuori. Beh, la Grecia già c'ha i suoi guai. Comunque, Alessandro. Sì, d'accordo, però. non è che noi siamo alieni da guai, No, ce l'abbiamo anche noi. La Grecia è ancora più piccolina, è ancora, diciamo, militarmente poco attrezzata. Alessandro, intanto ti ringrazio e chiedo a Ritana Armeni. Ritana, tu che ne pensi di questa polemica sui ministeri al nord? Ci sono, non ci sono? Guarda, ci sono le dipendenze, uffici di rappresentanza? Che cosa ci sono? Intanto voglio dire una cosa, sì, che da Bossi non sono state presentate come una cosa tecnica di rappresentanza, 150 metri quadri per mettere un po' gli uffici e per rendere un po' più vicini i cittadini, sono stati presentati come ministeri al nord. Adesso, io credo che naturalmente la cosa sia molto propagandistica, ma proprio tanto propagandistica, però credo anche che il Presidente della Repubblica avesse il dovere di dire che se il significato simbolico che si voleva dare era quello del trasferimento dei ministeri al nord, questo non era conforme alla nostra Costituzione, dove c'è una capitale in cui hanno sede i ministeri. Detto questo, voglio anche aggiungere che appunto a me pare una buttata propagandistica che faccia parte di una crisi profonda che sta vivendo la Lega in questo momento. La Lega ha bisogno di questa propaganda, anche inutile e anche un po', diciamo, spesso anche noiosa, perché si ripete continuamente con provocazioni di tutti i tipi. Tu hai ricordato quella di Napoli, eccetera eccetera, perché in questo momento è profondamente divisa e abbiamo visto il dissenso grande che c'è tra Bossi e Maroni in questo periodo, e poi è divisa soprattutto con la sua base, perché questo partito fortissimo che fino a qualche mese fa, prima delle elezioni amministrative, quindi non stiamo parlando di tanto tempo fa, tutti ritenevamo il partito più forte dello schieramento della maggioranza governativa, e tanto da tutti pensavamo, non so se te lo ricordi, ma credo che ce lo ricordiamo tutti, pensavamo che le elezioni semmai avrebbero segnato una sconfitta del PDL a vantaggio della Lega, Beh, questo partito oggi è in crisi fortissima con i segni di pancia elettori. A proposito del Ministeri al Nord, c'è stata molta partecipazione sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Te ne leggo qualcuna, Ritanna, e leggo anche naturalmente a chi ascolta. Massimo dice: penso che stiamo raschiando il fondo. Corrado dice: io li distaccherei a San Vittore. Adriano: ho l'impressione che il Quirinale abbia sempre gli occhi puntati sul governo. Ero quindi un po' d'accordo con Alessandro. Masa scrive: la proposta del distacco è l'equivalente mediatico della sabbia tirata negli occhi dell'avversario quando si è caduti a terra. Stefano Landi scrive: non sono d'accordo con lo spostamento, i ministeri sono e devono rimanere a Roma, capitale d'Italia. Gioacchino scrive: un governo no sense in cui si cerca di cambiare a proprio piacimento la base dello Stato italiano, la Costituzione, il Quirinale fa bene a vigilare e a porre dei freni a questo governo. Domenico Alberto dice: tanto fumo e niente arrosto, le sedi distaccate sono propaganda per il popolo leghista, ha ragione il Presidente della Repubblica. Luigi Izzo scrive: il federalismo consiste nello sparpagliare i ministeri per tutta Italia, avevo un'idea diversa. Poi Riccardo: dopo la conquista delle poltrone siamo l'uso capione. Monica Mazzoli scrive: bastano e avanzano i ministeri a Roma. Per Marco è una puntata intercontinentale, scrive così. E poi Alberto Ricciolo scrive: Roberta, non faccio mai citazioni, ma qui vorrei ricordare una frase di Churchill che secondo me si adatta alla situazione attuale: l'Italia non è un paese povero, ma un povero paese. Così scrivono i facebookiani a proposito di argomenti sui quali si sono espressi. Ma ora direi anche di fare un altro collegamento eccezionale che solo in questa trasmissione avviene in tutto il mondo, il globo terracqueo, che è quella con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Da quel che ho potuto osservare da quassù, da Marte, quindi come sempre a debita distanza e col mio telescopio, questa mi è parsa in sulla penisola italica la settimana, come dire, dei malintesi, delle strumentalizzazioni, della mancata comprensione. Quando insomma le parti che interloquiscono non sono sulla stessa lunghezza d'onda e a volte quindi si capisce Roma per Toma, Monza per Ponza. A cominciare dall'italo rappresentante europeo Borghezio, il quale, dopo che lo stragista psicopatico farneticante norvegese ha rincorso e freddato una per una oltre una settantina di persone, per lo più adolescenti, come un boia in movimento, commenta. Borghezio: la gran parte delle idee dell'attentatore di Oslo, al netto dei propositi violenti, al netto perché l'italo rappresentante europeo, avendo fatto anche lui gli elementari, si ricorda bene di quando si è occupato dei problemi di Tara, diceva dunque l'italo rappresentante: la gran parte delle idee dell'attentatore di Oslo, al netto dei propositi violenti, è condivisibile. Un altro italo rappresentante europeo, Speroni, ha subitaneamente annuito, anche lui col capo, dicendo che sì, Borghezio aveva ragione. Se non che Borghezio ha poi detto cose mai udite sinora in tutto lo Stivale italico, ha detto: le mie parole sono state strumentalizzate. Non è stato, insomma, compreso ciò che volevo dire. Tu non hai capito niente di come sono. In fondo, via, è stato solo un coming out come un altro, anche se poi la Lega lo ha fatto accomodare out per un trimestre. E un malinteso c'è stato anche per il ministro dell'economia, per il quale in molti hanno chiesto le dimissioni per questo presunto pagamento in nero di un appartamento di lusso da parte del massimo custode del fisco e dell'Italiche Finanze. E lui, il ministro dell'economia, ha detto che si è dimesso, sì, ma da inquilino. Anche qui non si sono capiti. Tu non hai capito niente. Ma diciamo, anche la gente comune è spesso vittima di qui pro quo. Mutuerà mica l'esempio dall'alto. Prendete tanto per citare un caso il settantenne che a Milano, dopo un banale diverbio, ha rincorso e messo sotto uno scooterista, passandogli poi due volte sopra con la macchina. Quando la polizia l'ha portato in gattabuia, lui ha assicurato costernato: ma io non volevo affatto ucciderlo, volevo solo parlargli. E anche qui è che non si sono capiti sul termine parlare. Tu non hai capito niente. E uno che proprio ha visto lucciole per lanterne, come si dice in questa settimana assai confusa, è uno scippatore professionista che a Napoli ha aggredito una donna e con violenza fulminea si è impossessato della sua borsa. La fuga tuttavia è durata poco e una volta arrestato, ecco la sorpresa da qui pro quo: la donna che aveva scippato era sua madre. Ma dico, mettiti un paio di occhiali siccome sei ciecato. Fatto sta che la mamma non si è lasciata per nulla intenerire e anzi ci ha messo il carico da 90 dicendo di essere stanca delle continue vessazioni del figlio, sempre alla ricerca di soldi, assicurandogli così 2 anni dietro le sbarre. Viva la mamma affezionata, quella con una 50, sempre così sincera. Via, lasciamo stare Marte, torniamo con i piedi per terra e c'è Luca dalla provincia di Monza Brianza, poi c'è Giuseppe da Catania, Angela da Bergamo, ci spostiamo in varie parti d'Italia. Luca. Buondì. Buondì Luca. Non da Marte per fortuna, spero almeno di non apparire come marziano. Ma non credo che hai c'hai le antenne, Luca. No, stai volevo per dire fare una riflessione. Sentiamo. Controcorrente sul processo lungo. Molto bene. Quindi mi esprimo. Esprimiti. Molto libertà. Semplicemente, al di là delle speculazioni giornalistiche, tutti sanno, dovrebbero sapere che il processo in Italia si fa con la difesa che pone delle testimonianze a suo favore, certo. E col giudice che ha la possibilità di tagliarle e segarle come meglio crede, anche per economia processuale. E alcuni dovrebbero sapere, se non tutti, che tutti i processi che sono nati negli anni 90 dalla stagione di Tangentopoli hanno visto magari persone indagate e poi condannate in procedimenti connessi, che come testi dell'altro processo, di quello che si vede accusato dal condannato, potevano avvalersi della facoltà di non rispondere. E quindi, per semplificare, se fino ad oggi io imputato col vecchio processo, quello che tuttora è, mi vedo accusato da qualcuno che nelle separate stanze, senza che mi è stato dato l'agio di controinterrogarlo e di fargli domande, posso essere condannato, perché un giudice o mi sega le mie testimonianze o mi mette quelle che possono avvalersi della facoltà di non rispondere, si producono alle volte dei mostri giuridici, delle sentenze di condanna dove il diritto di difesa è limitato. Non voglio citare Craxi, che sta sull'anima a tutti, pace all'anima sua, ma la Corte di Giustizia Europea ha detto che il processo che ha subito non è stato un processo giusto, perché gli è stato limitato in parte anche il diritto di difesa. Ma lui perché non si è difeso in Italia, Luca? Lui si è difeso in Italia, poi se n'è andato da Mamet per sottrarsi, definiamolo anche latitante, quanto se ne vuole, ma la Corte di Giustizia Europea è un organo non nazionale, non mosso da berlusconismo o anti-berlusconismo, ora si direbbe, e ha detto che il processo come si svolge in Italia non garantisce la difesa. Senti, però anche il vicepresidente Vietti del Consiglio Superiore della Magistratura diceva ieri, in questo modo, con questo provvedimento andiamo contro l'Europa, in direzione opposta. Questo è il pensiero di Vietti, persona chiaramente più preparata di me, non lo metto in dubbio. Tu che fai nella vita? Sono un avvocato. Ecco, questo non però, avevo dubbi. Questo però non aiuta. Detto ciò, sarà anche per quel che dice Vietti, però noi abbiamo un principio sancito dalla Costituzione, che è il diritto di difesa, che è andato in sofferenza con questi strumenti. Dici che è andato in sofferenza. Guarda che è molto difficile che qualcuno in Italia vada davvero in galera e ci vada per un certo periodo, anche proprio i mega criminali. Poi sarà un'impressione mia. Guardi, no, l'impressione può essere anche corretta, ma il processo giusto vuole che uno vada in galera dopo che è stato condannato e nell'ambito di un processo dove gli è stata garantita la difesa. Si può opinare quanto si vuole. Dei 35.000 testimoni, come l'esempio citato dalla la sua ospite, è un'esasperazione del concetto. Riduciamo ai minimi termini. Sì, come è successo a Berlusconi nel processo Mills, giusto per rimanere all'attualità, gli si è detto che alcune testimonianze non potevano essere ripetute perché già avevano fatto parte del processo Mills, ma la difesa di Berlusconi non ha potuto controinterrogare, e si acquisiscono questi dati per formare una decisione, può essere anche giustissimo, magari colpevolissimo, però ne soffre il diritto di difesa, perché comunque il giudice ha la libertà di chiedere anche semplicemente una dieta della lista testi perché ritiene ridondante a suo giudizio, senza ancora non aver sentito nulla di questi testimoni, chiamare più persone su alcuni fatti. Luca, giusto o sbagliato? Ho capito. Eccoci di nuovo insieme, Roberta Giordano con voi sino grosso modo alle 15. C'è sempre la pagina Facebook se volete poi man mano nei giorni per commentare i fatti della settimana. Vi ricordo che poi adesso ad agosto ci alleggeriamo un po', ecco la formula, magari parliamo di altre cose, poi riprendiamo a fine stagione, riprendiamo di nuovo con la formula sulle notizie della settimana. Ogni tanto va bene anche un pochino svagarsi. Sempre mio opinionista estemporanea oggi è Ritanna Armeni, giornalista, scrittrice, conduttrice. La sua è parola di donna, è vero Ritanna? Assolutamente. Come il tuo bel libro pubblicato da Ponte alle Grazie sulle parole rinominate, diciamo, da altrettante donne, un centinaio di parole che tu hai passato in rassegna. A parlare di parola di donna, io volevo rispondere all'avvocato, sì, che prima ha parlato, a Luca, che è una persona naturalmente molto esperta e mi pare ai suoi motivi, ma mentre lui parlava mi veniva in testa una cosa, cioè in realtà noi in questo periodo, soprattutto gli avvocati, soprattutto le difese, hanno molto molto protestato contro i processi mediatici, no? Cioè, sul fatto che poi soprattutto i personaggi della politica venivano messi alla gogna sui giornali, eccetera, eccetera, prima ancora che si potesse appurare la verità o si andasse ad una sentenza. Allora io mi chiedo, Non è invece in realtà il processo lungo una cosa apparentemente a favore della difesa, ma poi in realtà non lo è, perché nel momento in cui, diciamo così, si sanno le accuse e quindi c'è, come dire, i giornali dicono la loro sulle accuse e le accuse vengono naturalmente propagandate e poi non si arriva alla verità rapidamente. Sia che una persona sia colpevole, quindi è giusto, no? Che in qualche modo la verità venga accertata nella persona, sia che invece sia innocente e quindi possa ripristinare, come si dice qui in termini un po' antichi, il suo onore. Beh, un processo lungo non va in questa direzione, assolutamente, e secondo me rende più facili quei processi mediatici, dei quali spesso i giornali, noi lo sappiamo, sono stati complici, che non fanno un buon servizio né alla verità né a chi è accusato e neanche in generale alla giustizia. Cominciamo, sì, vediamo cosa ne pensano man mano le ascoltatrici e gli ascoltatori. Ti ascoltavo con interesse, Ritan. Cioè, ci sono molti in attesa, quindi devo dar subito parola a Giuseppe da Catania, che mi sa che un po' che aspetta. Giuseppe, grazie della pazienza. Aspetto da circa 15 minuti. Mamma però mia, ho ascoltato volentieri. Non è che la pago la telefonata, no? No, assolutamente no, è gratis. Al massimo ci mandi la bolletta, se fosse. Grazie, ecco. Intanto buonasera a lei. A te, Giuseppe. Un saluto cordiale alla Ritanna. Alla Ritanna io lo mandiamo senz'altro, ma sentele. Senta. Io volevo fare una piccola riflessione e la risolvo in poche parole. Questi personaggi della politica, grossi, piccoli che siano, tutti si dichiarano, ogni volta che si apre un'inchiesta, si dichiarano estranei ai fatti, che sono innocenti, che non hanno nulla da rimproverarsi. E rimangono attaccati alle loro poltrone. Forse c'è una colla particolare, io penso. Sì, una colla proprio che è inscollabile. E allora quello che dico io sono garantista, io ritengo che quello che dicono loro va preso nella giusta considerazione, non buttarli in galera, non dare i domiciliari, non dare delle... misure cautelari, preventive. Misure cautelari alternative, dico... che accettino, perlomeno che accettino il processo, se la magistratura ritiene di andare avanti lo faccia e loro non debbono porre degli ostacoli. Ora, se risultano innocenti, hanno avuto ragione loro a dichiararsi innocenti quando sono stati indagati, ma se risultano colpevoli, io non l'ho vista sentire mai una riflessione di questo genere. Tutti i soldi che hanno preso durante il periodo del processo e dell'inchiesta, perché non le restituiscono allo Stato o agli enti da dove li hanno percepiti? Perché con quella condanna loro non avrebbero avuto il diritto di percepire. Perfetto, Giuseppe, chiarissimo da Catania. E a questo proposito volevo chiedere a Ritanna Armeni, ho visto il Corriere con gli editoriali, mercoledì e giovedì si sono susseguiti con due titoli molto simili ma su casi diversi. Allora, mercoledì è di Antonio Polito, quel che Bersani non ha detto, mentre giovedì Sergio Romano, quel che Tremonti non ha detto, Bersani non ha scritto e Tremonti non ha detto. Di Antonio Polito, ti leggo brevemente questa cosa, Ritanna Armeni, poi c'è Angela, Nico dalla provincia di Chieti, Stefano da Roma, tantissimi ascoltatori. Quindi vado veloce, dice Antonio Polito, il PD ha questo di buono, della sua questione morale perlomeno ne parla. Parlato Bersani, dice la missione che la diversità genetica non esiste più, però Bersani aspira, dice, a quella politica. E verso la conclusione Polito scrive, moralizzare davvero vuol dire espellere la politica dalla gestione degli affari e dell'economia, fare del moralismo invece lisciare il pelo ai pasdaran dell'antipolitica come il PD ha fatto fin qui spesso. Cosa ne pensi di questa questione, per esempio, dell'indagine su Penati? No, io devo dire che dice a me, sì? Sì, Ritanna. Dunque, io devo dire che sono molto d'accordo con Antonio Polito su questa vicenda, perché è vero che il problema, come dire, come spesso è nel manico, finché la politica e i politici saranno nei consigli di amministrazione, voglio dire, si creano tutte le condizioni perché vadano avanti i meccanismi di corruzione, quindi il problema è proprio a monte. Adesso io sono molto contenta che Bersani, che è il capo del maggior partito di opposizione, abbia detto che la questione è politica, ed è vero che è politica, che la diversità è politica. Mi aspetto francamente qualche gesto di più, perché voglio dire, bisogna trarre le conseguenze da questo. Io mi aspetto che vengano ritirati i politici dal consiglio di amministrazione, se non si fa unilateralmente, perché si propongano delle leggi che vadano in questa direzione. Di questo io sono abbastanza convinta, insomma. Quindi, e quanto all'antipolitica, anche qui secondo me Polito ha ragione, e si è molto lisciato il pelo all'antipolitica e si è fatto molto male in questo modo, perché la politica ha dei costi, perché non dirlo veramente? La politica, abbiamo dato ragione, i giornali hanno dato ragione a tutti coloro che se la sono presa sui costi della politica comunque, ma non è così, la democrazia costa. Se noi vogliamo dei deputati e dei senatori, certo, possiamo dare uno stipendio inferiore, possiamo chiedere qualche che, spreco, sì, qualche privilegio qualche in meno, spreco, diciamo che si può. Assolutamente, ma questo non c'è dubbio. Però si è andati oltre, secondo me, di questo io forse, come dire, sono molto in minoranza in questo paese, però secondo me si sta facendo qualcosa di più, cioè si sta screditando tutto, e questo non è possibile. Bisogna sapere che il paese democratico, per esempio, mantenere un Parlamento costa. Anche se Rita, nei nostri mi sembra che prendano 3 volte, 4 volte più di altri, anche degli Stati Uniti, sono delle esagerazioni. Io non vorrei essere scambiata per una che vuole, dico soltanto che ci sono tanti modi, per esempio abolire le province è un modo per i costi della politica si riducano, ridurre il numero dei parlamentari è un modo concreto per ridurre i costi della politica, certo. Non dare le auto blu è un modo concreto, però invece molto spesso tutto questo diventa generico, e quando diventa generico alla fine diventa l'antipolitica, tu curdi contro la politica, e prendersela contro la politica è un grande danno per il paese, secondo me. Sentiamo all'800240024 Angela da Bergamo, che anche lei è lì con la cornetta, da un po' che si sarà stancata il braccio. Angela, buongiorno. Niente, io volevo intervenire per dire la mia sulla Lega. Prego. Io non ne posso più della Lega e sono masochista, per cui al mattino quando faccio le pulizie ascolto Radio Padania per sentire le fesserie, le castronerie che dicono, e come questi elettori possono essere strumentalizzati dai capetti. E ci sono tanti piccoli borghesi che intervengono e che riconfermano quelle cose violente che Borghezio è abituato a dire. Questo partito, che rappresenta l'8%, il 9% se va bene, io dico il 5% alle prossime elezioni, crede di essere il padrone del Nord, lo dice già Michele Serra, lo diceva in questi giorni su Corriere o sulla Repubblica, non mi ricordo bene, eppure fanno delle castronerie, delle assurdità come quello dei ministeri, hanno buttato a mare la bandiera, hanno buttato a mare l'inno, fanno sberleffi alle istituzioni, sprizzano disprezzo contro chi non la pensa come loro, cioè non hanno realizzato niente di quello che avevano promesso, riduzione del Parlamento, limitazione dell'immigrazione, eccetera, eccetera, eppure pensano di essere in grado di criticare tutti gli altri, mettono in croce Pisapia che sta riorganizzando il comune di Milano, riempiendolo di critiche e distruggendolo completamente. Tutto questo veramente non lo posso più sopportare. Angela, io capisco che tu ti voglia fare un'idea, quindi ascolti un'altra radio, tu però ti do un consiglio, ascolta Radio 24, così è più rilassato, più tranquillo. Questo va bene. Ciao Angela, grazie. Proprio qui, subito, immediatamente con voi. Credo che sia caduto Nico, riusciamo a recuperarlo? Nico dalla provincia di Chieti? Sì, e c'è Stefano da Roma. Stefano, che è successo? È caduto pure Stefano, cioè, un crollo generale come in borsa a volte succede. E aspettiamo allora che Alessandro Balia ai telefoni recuperi gli ascoltatori. E invece volevo... c'è Giampiero da Pavia? Vedo, è lui? Giampiero, ci sei? A te la parola. Pronto? Giampiero? No, c'è un problema tecnico telefonico. Come possiamo... Ritanna Armeni, opinionista estemporanea di Oggi, l'ultimo libro Parola di Donna. Ti volevo chiedere, sull'affossamento della legge contro l'omofobia che c'è stato questa settimana, gli ascoltatori anche su Facebook sono intervenuti abbastanza numerosi, direi. Per esempio, un ascoltatore che si un facebookiano che si firma Save the Groove dice: secondo me, da un orientamento come l'omosessualità non dovrebbe derivare alcuno svantaggio sociale, allo stesso tempo troverà ingiusta una tutela speciale. Max dice: e cosa si dovrebbe pensare? Che la politica ha perso la bussola, la mappa e sta facendo la coda per comprare un navigatore. E Cesare scrive: viste le continue vessazioni a cui sono sempre sottoposti gli omosessuali, penso che meritino più protezione e attenzione, i pregiudizi contro di loro sono troppo radicati, e parlo da etero. Monica dice: nessuno deve essere privilegiato, ma gli omosessuali in Italia sono emarginati e sono senza sicurezza. Marco De Biasi scrive: il fatto di dare una pena aggiuntiva all'aggressore, se la persona aggredita è un omosessuale, secondo me è un fatto altamente discriminatorio. Se questa legge fosse passata, avrebbe fatto sì che gli omosessuali fossero stati ancora più diversi dalle persone etero. Corrado dice, Marco lo corregge, la pena aggiuntiva è perché aggrediscono l'omosessuale proprio in quanto tale. Mi tocca ripetermi, classe politica di ignavi, e lisciare al pelo il Vaticano. Mi fa orrore pensare che molti di quelli che hanno votato contro magari sono anche gay, si riferisce ai parlamentari. Poi Francesco: non servono nuove leggi, basterebbe far rispettare e applicare quelle che ci sono. Tu cosa ne pensi, Ritanna? Io penso che è vero, basterebbe far applicare le leggi che ci sono. Il problema è che quando queste non vengono applicate adeguatamente, e quando, come succede negli episodi di cronaca continuamente, gli omosessuali sono aggrediti. La mia amica Paola Concia, che è l'unica deputata che tale si dichiara, è stata aggredita mentre camminava con la sua compagna. Mano nella mano, che mi sembra una cosa così bella. Mano nella mano. Allora, francamente, a quel punto il problema è che perché le persone siano uguali, bisogna metterle in condizione di essere uguali. Certo. Siccome si vive una differenza, allora la legge deve rendere uguali delle persone che sono differenti, no? Perché è chiaro, no, che ci sono delle differenze tra tutti noi, e quindi questa legge, secondo me, in realtà, sotto questa storia dell'eguaglianza, ha confermato un grandissimo pregiudizio che in questo paese ancora c'è. Secondo me, poi voglio dire, tutti siamo abbastanza saggi, no? Non credo tutti, mi sono un po' allargata. Diciamo che io ho abbastanza fiducia in generale nella giustizia da questo punto di vista. Se un omosessuale sta in un luogo in cui si sa che vengono frequentati da omosessuali, da gay, eccetera, e viene aggredito in quel luogo, è chiaro che viene aggredito in quanto omosessuale. Stavo vedendo, tra l'altro, curioso, proprio adesso, mi pare su Sky, matrimoni gay a Broadway. A Broadway c'è tutta la fila, sai, che a New York e poi in vari altri stati da un po' appunto è stato legittimato, e quindi proprio mentre ne parlavamo, questa strana coincidenza, ecco, che osservavo, e sentirei, a questo punto andrei di corsa galoppando verso la nostra satira della settimana con l'inventore di Spinoza.it, alias Stefano Andreoli. Caro Stefano, buongiorno Roberta. Che istantanea ci dai di questi giorni? Siamo alle battute finali e a questo punto credo di poter confessare che tutti i nostri interventi sono stati registrati lo stesso giorno, ovvero il 10 novembre 2010. Com'è possibile? Perché? Siamo andati a caso con le notizie, ci abbiamo un po' preso, diciamo così. Che lungimiranza. Comunque, sì. Piccolo riassunto della settimana con una notizia che ancora non è tale, un evento imminente, tra poco c'è la finale della pallanuoto col Settebello, sì. ma il Vaticano è contrario al Settebello, come ha sempre detto. Parliamo anche di quest'ultimo argomento, la legge anti-omofobia. La maggioranza boccia la legge definendola incostituzionale. E se non se ne intendono loro di leggi incostituzionali, guarda, non so veramente che cosa dire. A proposito, a Roma hanno distribuito il decalogo antistupro, sì, non so se la de Mecum per le donne, sì. Il consiglio è quello di evitare vestiti appariscenti. Provocanti. Evitare vestiti appariscenti, ma nessuno mi risulta mai stuprato Oscar Giannino, quindi credo che quindi questo problema. Un saluto anche a Oscar Giannino, oltre chiaramente alla graditissima Ritanna Armeni, tua ospite. Altre notizie: Sud, allarme giovani. 2 su 3 non lavorano e il terzo è disoccupato, e quindi questo è veramente un problema, una statistica recente. Saluto anche l'ascoltatrice masochista che ascolta Radio Padania. Prima una notizia curiosa: India, nasce un bambino con 34 dita. È la reincarnazione di un pettine. Questa, vabbè, è una scemenza, ma veniamo a parlare del fulcro di, appunto, questo personaggio Borghezio che dichiara: al netto della violenza, le idee di Breivik, l'attentatore norvegese, sono condivisibili. Beh, al netto della violenza, anche quelle di Godzilla non sono male. L'attentatore norvegese poi si è scoperto essere di destra e fondamentalista cristiano. Peccato che i ministeri siano già tutti coperti e quindi non c'è più spazio per lui. Borghezio verrà sospeso per 3 mesi, poi finirà la stagionatura. E chiudendo con quest'ultimo commento, Borghezio ha dichiarato, parole sue: per assumere posizioni come le mie sì, bisogna avere i coglioni. Molto Borghezio, no, l'ho detto davvero, non è una battuta, fermati, non è una battuta, non mi censurare, sì, fammi finire. Ciao, Borghezio ha dichiarato, per assumere posizioni come le mie, sì, bisogna avere i coglioni, che ti votino, ciao e buona giornata. Ecco, molto bene, chiudere immediatamente con la censura il nostro Stefano Andreoli. Invece andiamo, diciamo, in un clima, in una dimensione un po' più culturale, più alta, più tranquilla, con la nostra Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale, Valeria, sottoporrei la parola, che tutti fa paura, sembra quasi una parola, che cavolo vale di default. Default, sì, parola di grande attualità purtroppo, però magari non pensiamo quando la leggiamo, ascoltiamo e pronunciamo che tutto nasce da una parola latina. La parola latina era defallire, e quindi ecco che già entriamo in contatto col significato attuale, tenendo conto che però la parola era già molto familiare a chi si occupa di informatica, no? Quella scritta default indica una configurazione preimpostata in assenza di istruzioni da parte dell'utente. Però adesso il significato attuale è quello in economia, che è diventato particolarmente popolare in tutto il mondo da quando il presidente Obama ha parlato di un rischio default. Prepariamoci dunque, dal punto di vista linguistico, mi riferisco solo alla lingua, a un'invasione di questo termine di default in senso figurato d'ora in poi. Insomma, conclusione finale, prima di salutarci, decisamente più sopportabile il senso figurato di quello concreto della parola. Molto bene, viva Valeria Della Valle, viva anche il suo libro Viva la grammatica, che quest'estate si può consultare, diciamo, poi ritornando poi preparati a settembre. Allora, mentre aspetto tra pochissimo una conclusione da Rita Anna Armeni, perché ci mancano pochissimo, cioè, ci sono vari ascoltatori a cui chiedo scusa. In linea Giampiero, riesci da provincia di Pavia proprio in 32 secondi a dirmi la tua, Giampiero? Scusami, sei ripreso. Sì, grazie per la possibilità di parlare. Volevo solo esprimere il mio disappunto nei confronti della vicenda Tremonti, nel senso che la ritengo veramente allucinante. Se un cittadino comune non registra un contratto d'affitto, giustamente è sanzionato. Lo stesso governo Berlusconi ha promosso la cedolare secca come una forma di lotta all'evasione, e molto bellamente il ministro dell'economia va in televisione dicendo che si è dimesso da inquilino con un piccolo particolare: non ha mai fatto un contratto d'affitto, pagava in contanti un canone che in realtà non esisteva, e mi chiedo questi soldi percepiti se poi sono stati tassati. Grazie, la risposta Giampiero, in realtà ce l'ho, ma è vergognoso. Grazie Giampiero, chiedo scusa alle altre ascoltatrici e ascoltatori, e poi ci sentiamo nelle prossime settimane. Mentre ci salutiamo con Rita Anna Armeni, Rita Anna, non so se vuoi commentare, se sei preoccupata per esempio delle condizioni di salute di Vasco Rossi, che però pare il lunedì sia dimesso, oppure ti racconto di questo lavoro di Anastasio, un 17enne e che negli Stati Uniti, se non sbaglio, sì, a New York, controlla la tinterella delle ospiti di un hotel di lusso. Questo è il suo lavoro, penso che a molti non dispiacerebbe, diciamo, e gli manda un sms dicendo: ora ti puoi girare, sulla schiena sei abbronzata, girati, oppure vuoi commentare il vademecum dei vestiti provocanti di Roma. In 22 secondi che cosa mi dici, Rita? Su questo lavoro? Io penso che il lavoro, voglio dire, hanno fatto tante prese che bisogna crearselo, nessuno te lo dà più autonomamente, quindi questo ragazzo, se ce l'ha inventato lui, è stato molto bravo. Evidentemente ci sono tante donne o tanti uomini che vogliono essere avvertiti quando la pittarella è arrivata al momento giusto. Girati. Perché no, ci sono quelli che forniscono delle bevande e quelli che, come dire, sulle spiagge fanno dei massaggi, e lui dà degli orari, va bene. Chiudiamo con creatività, grazie Rita Anna Armeni, buone vacanze. Buone vacanze anche a voi. Ciao, Roberto Giordano vi ricorda che c'è sempre la pagina Facebook, e intanto sereni orizzonti a tutti.